quando Cuba chiama, l'alma di Cuba. E quando Cuba chiama, oh, oh, l'alma di Cuba. E quando chiama Cuba, l'alma di Cuba. E quando Cuba chiama, triangolo in copertina, il triangolo in ogni rima, il triangolo è più usato della figa di una velina, il triangolo è la scienza, triangolo nei rap, perdona l'incoerenza, sono cresciuto tra la gente e se non compari scompare in ogni angolo della terra, siamo comparse di uno spettacolo di merda, fuori dalle linee del tuo patto, i padroni spettatori ci lanciano noccioline ad ogni atto, attimi di sbattimo, di quarti sbalzi che piangono, di fatti che accadono e fantasmi che scompaiono, viaggiano, traggono pare, tra pare di marmo ma mormorano, non ci attaccano bro. Nel Bronx, facce di bronzo tra casse e gangaste citando soffome man, ma moro nuovo crack tra casse e rullante, mo basta un pam, se sono morto in casa con bagno mo flaude pam. Quando duri e tu arrivi a domani, ricorda che se muori rientri nei loro piani, tieni gli occhi aperti quando giri l'angolo, qua gli occhi te li chiudono, gli occhi nel triangolo. E tu fin quando duri e tu arrivi a domani, ricorda che se muori rientri nei loro piani, tieni gli occhi aperti quando giri l'angolo, qua gli occhi te li chiudono, gli occhi nel triangolo. È una tortura, ti basta immaginare che la cura al cancro l'ha chi non ha i soldi per studiare. Sono incazzato, con questi presi a male, cambi lo stato ma lo stato io lo cambio scendendo a protestare. Siamo rani in uno stagno di acqua congelata, una foglia come casa la vogliono anche pagata. C'è chi fa genocidio a docce e chi invece usa le bombe, io vorrei le foglie a flotte con forconi e torce. In piazza, studenti, cori, cartelloni, non sanno ciò che fanno, basta saltino le lezioni. E le lezioni le pagate con 80 euro al mese, riprenditi ste monete e prendi lezioni d'inglese. Tirando da mangiare merda senza lavanda gastrica, non c'è l'alcol in vetro, nel bicchiere di plastica spari un ragazzo al cuore, precisione da cecchino, porto il corpo a un genitore, diglielo che li uccide. Tu fin quando duri e tu arrivi a domani, ricorda che se muori rientri nei loro piani, tieni gli occhi aperti quando giri l'angolo, qua gli occhi te li chiudono, gli occhi nel triangolo. E tu fin quando duri e tu arrivi a domani, ricorda che se muori rientri nei loro piani, tieni gli occhi aperti quando giri l'angolo, qua gli occhi te li chiudono, gli occhi nel triangolo. E tu fin quando duri e tu arrivi a domani, ricorda che se muori rientri nei loro piani, tieni gli occhi aperti quando giri l'angolo, qua gli occhi te li chiudono, gli occhi nel triangolo. E tu fin quando duri e tu arrivi a domani, ricorda che se muori rientri nei loro piani, tieni gli occhi aperti quando giri l'angolo, qua gli occhi te li chiudono, gli occhi nel triangolo. Si sforza all'università ma lavorare zero, chi sogna di volare trovi gas in cielo, credo nella speranza ma già mi vedo in nero, il padre al figlio dice sarà tutto più sereno, in me tre lo abbraccia, si chiude a chiave e stanza, non troverà una vita peggiore di quella che lascia l'ultima lacrima. Casca in un limoncello, gira pagina e caccia lo sgabello. Tu benvenuto nel paese delle rese, pensando al futuro non arrivi a fine mese, tra pretese prese per il culo aspettando riprese in distese di contese e consumo. Tu confidi in chiese pregando un dio nessuno e nessuno controllerà mai la mia testa, tra le verba nelle vene la mia arma la protesta, le mie rime sono solo le pietre della quiete prima di sta tempesta.